voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. This is Natalia. She is my sister. She is number four prostitute in all of Kazakhstan. Nice. Territorio libero di Trieste, 5 novembre 1953. L'architetto e poeta Carlo Alberto Rizzi uscì di casa alle 10 del mattino. La barba nera perfettamente in ordine, slanciato e fiero come posasse per un monumento equestre, guardò intorno per un istante, aggiustò il tricolore infagottato sotto il Montgomery e finalmente si incamminò verso Sant'Antonio Nuovo, dove di lì a poco si sarebbero radunati gli studenti. Il vento portava un vociare lontano, urla e canti. La città manifestava contro i soprusi del generale Winterton per la restituzione all'Italia di Trieste e di tutte le terre irredente. I cortei erano stati organizzati la sera prima, staffette corse di casa in casa sfidando il controllo degli anglo-americani che occupavano la città ormai da 9 anni. 9 anni, durante i quali Rizzi aveva spedito lettere ai giornali, inoltrato petizioni alle autorità, declamato infuocati poemi patriottici nei teatri e nei caffè. Rizzi, 46 anni, si definiva uno di quei liberali di cui si è perso lo stampo e soffriva per la sorte toccata alla sua città, occupata dai tedeschi nel 43, da Tito nel 45 e dagli angloamericani poco dopo. Le grandi potenze non volevano che i popoli della Venezia Giulia, d'Istria e di Dalmazia scegliessero liberamente il proprio destino, italiani tra gli italiani. Trieste era diventata un limbo, chiamata con sprezzo del ridicolo territorio libero. Né di qua né di là, né carne né pesce. La città e i territori a nord assegnati al governo militare alleato e denominati zona A. A sud dei confini comunali la zona B, amministrata dalla Jugoslavia. L'umiliante imposizione era sancita dal cosiddetto trattato di pace del 47. Ma la pace di chi? Le strade di Trieste erano pattugliate dalla polizia civile del GMA, il cui nucleo mobile era soprannominato la Quinta Colonna di Tito, per la violenza con cui reprimeva le manifestazioni degli italiani. Quanto alla zona B, Tito usava il pugno di ferro per cancellare ogni traccia di identità italica. Era tempo di riconquistare la dignità perduta. Forse proprio quel 5 novembre sarebbe stato il giorno della verità. Questo era un altro degli antefatti di 54 di Wu Ming. Diverse strade che giungono da percorsi diversi nella scena indipendente italiana che si sono unite all'interno di un nuovo progetto, Amor Fu, è il nome del progetto in uscita il 1° di ottobre con La stagione del cannibale per Home Sleep con distribuzione Audio Globe. Andate con un motore di ricerca a cercare Amor Fu oppure andate sugli stessi siti di Home Sleep e Audio Globe e scoprirete chi sono i quattro nomi che si nascondono dietro a questo progetto che ci siamo ascoltati con il periodo ipotetico. Giulio Caperdoni in vostra compagnia per la seconda parte di Eclettica, che invece si era aperta con uno dei gruppi che compaiono ogni settimana da qualche tempo a questa parte, The Pains of Being Pure at Heart. Il pezzo aveva per titolo Doing All the Things That Wouldn't Make Your Parents Proud, e si prosegue invece con Kevin Drew, il primo dei componenti dei Broken Social Scene ad uscire con un album solista. Si dice che anche gli altri poi seguiranno lo stesso percorso artistico. Kevin Drew, che già ci siamo ascoltati con altre cose, ma che quest'oggi compare all'interno di Eclettica con Back It Out On The, brano che è stato scelto come singolo e di cui potreste cominciare a vedere in giro anche il video. Very nice room. Not in the room yet, sir. Hold on. You might want to repack your things. We're going to be moving again shortly. I will not move to a smaller room. Sir, this is your floor. I'm going to take you to your room. This is not my room? This is the elevator. It takes you to the floor where your room is. Intorno al mondo, 25 dicembre 1953. Sostanza che rilassa cuore e sfintere, nettere che placa ribellioni nei muscoli, storie di fate raccontate a ossa e articolazioni, frutto acerbo di papaver somniferum, mano di turco, mano di laotiano, mano di birmano, polso fermo, lama che incide, lattice che tocca l'aria e si rapprende, poltiglia marrone che appiccica le dita, filamenti e polpastrelli, bimbi che giocano con resina di pino. Chandu, oppio preparato, pani che riempiono casse, che riempiono autocarri, che raggiungono aerei o navi in attesa, doganieri compiacenti, occhi chiusi di eserciti e stati, investimenti tramite banche. Un chilo d'oppio diventa 100 grammi di morfina, che diventano 120 di eroina pura, che si mescola a talco, polvere di gesso, chissà cos'altro. Per ogni dollaro speso in oppio se ne guadagnano 5.000. Merce che ogni mercante sogna, additivo bramato da ogni sistema circolatorio. Rotte incrociate, dalla Turchia alla Sicilia, attraverso Bulgaria e Jugoslavia, dalla Sicilia a Marsiglia, dall'Indocina a Marsiglia sulle navi dei legionari, da Marsiglia alla Sicilia, dal Mediterraneo all'America. The French Connection. La cravatta stringe il braccio, ago infilato di fretta nell'incavo del gomito squarcia la vena, ben visibile sotto la pelle scura. Schizzo di plasma, eritrociti, leucociti, inutili trombociti sbalzati nel mondo esterno. L'imprecazione chiama in causa il creatore. Nessuno lo sente, a parte il creatore, e le blatte dietro i battiscopa. Ma il creatore chi lo sa se esiste davvero, e le blatte non hanno orecchie. Corpo, involucro di tremiti e di sussulti, nemmeno un muscolo che faccia il suo dovere senza lamentarsi, sangue di morto in piedi, odore di gengivite acuta, sudore freddo. Il musicista preme un fazzoletto sul buco, sospira, lega la cravatta intorno all'altro braccio. Difficile premere lo stantuffo della siringa. La mano che usi di meno sembra appartenere ad un altro. Il cervello non sa dirigerla. Calma, calma. Respira e riprova. Ecco, nessun problema, siero caldo inizia la corsa. Euforia e benessere, un pollice dopo l'altro. Slega la cravatta comprata da Brooks Brothers. Silenzioso peto di beatitudine. Sorriso. Buon Natale. Questo era un altro degli antefatti di 54 di Wu Ming. Heard the sound from miles away, thumped in my ear like a drum. I was picked out of everyone, so I listened on. Took me out of a passion I'd imagined and sent me out on a search. If it hadn't rained so hard that night, I could have made it to your house by one. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. That night felt like a vicious joke, would kill me all the way up to you. Day shone a little less light, so you rebuilt the moons. Taught me how to follow my shadow, could have sunk me like a stone. But the stars shine brighter in the sky than the dust from the dirt below. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. Quasi in chiusura, quasi alla fine dell'ultimo lunedì della stagione numero 13 di Eclettica. Vi ricordo che infatti da settimana prossima Eclettica scomparirà per qualche settimana dalle frequenze di Rock FM per poi riapparire con la stagione numero 14 e qualche piccola novità. Però la musica di Eclettica ci sarà sempre, non ci sarò io in onda, ma ci sarà la musica di Eclettica. Queste scelte musicali vi terranno sempre compagnia anche nelle prossime settimane fra le 19 e le 20, come i Lightning Dust dalla California che ci siamo appena ascoltati con Listen On, e come dall'altra parte del mondo, nell'altro emisfero, gli australiani Architecture in Helsinki, che invece quest'oggi chiudono però con la versione Yacht Remix della loro Heart It Races. Bye. we're slow to acknowledge the knots in the laces. Are they racist? And we go back to where we moved out to the places. Like little splinters. To acknowledge the knots in the laces. Hot erasers. And we go back to where we moved out to the places. Hot erasers. I sold it to a man and threw him out that window. He went boom da da da da da da boom da da da da. Made his wife a widow. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 49, volume numero 1. Indice: Brazos, Art in Manila, Iron and Wine, Gone Moon, Fujiya e Miyagi, The Go Team, The Pains of Being Pure at Heart, Amor Fu, Kevin Drew, Office, Line in Dust, Architecture in Helsinki. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.